A Rock FM sono le 8 e un minuto, forse. Nel senso che l'orologio sembra un po' così. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock in diretta qui da Rock FM. La tua colazione rock. Non chiedetevi cosa può pane, burro e rock and roll fare per voi. Mattina ascolta rock. Chiedetevi cosa voi potete fare per pane, burro e rock and roll e scrivetecelo al 335 100 7777. E quella dei fratelli? Qual è quella dei fratelli? Quella che erano fratelli. Ah, quella dei fratelli, sì, avete ragione. Mi piace quella? Sì. Quella è bella, infatti una... Bella, bella, bella, bella, bella. Vabbè, però dopo un altro bacetto, allora se canti che devo proprio cantare, voglio sì. Il bacetto. Quella è bella, io ci tengo proprio particolarmente a questa qua, l'ho scritto in un momento così, no, di che mi piaceva la fratellanza, così. Fa così. Fratello, unito d'Italia, l'Italia si desta, del municipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e di lagrio. Fratello Italia, l'Italia si rivede. Radio. Io devo confessarlo, vivo questo momento molto probabilmente come quando lei da piccolo aspettava il carosello. Ma come fa a saperlo? Lo immagino. Ebbene sì, ero in fibrillazione. Ed è la stessa fibrillazione che ho io quando si avvicina il momento dei compleanni del giorno. Ah sì, l'angolo dei tanti auguri. Oggi i nati. Iniziamo con un super filosofo italiano che nasceva nel 1909, proprio il 18 di ottobre, il buon Norberto Bobbio. Mentre notizia di grande spessore per la musica rock, nel 1926 nasceva il grande chitarrista, compositore, showman, irresistibile, pilastro, mito e punto di riferimento per tantissimi artisti, compreso Elvis, My Beatles e tanti, tutti gli altri, insomma, il grande Chuck Berry. Oh, sa che a volte mi chiedo... Una specie di Totò, mi perdoni, specie di Totò alto, un Totò sì. Alto sul palcoscenico. Ha mai visto ci quel sta, gigione sì. Di Chuck Berry che faceva la gallina? Se la sentisse chiamato gigione, credo le tirerebbe un pugno in faccia. Vero, perché è un po' rissoso Chuck, ma era gigione nel senso più affettuoso del mondo. Io sono un grande ammiratore di Chuck Berry, soprattutto quando fa la gallina sul palcoscenico. Buon compleanno al mitico Chuck e aggiungiamo a questa lista di auguri anche Gary Richard, musicista dei Rio Speedwagon, che nasceva quest'oggi nel 1949, ma sono molto contento che la redazione mi abbia segnalato anche il compleanno di questo mitico attore che tutti voi ricorderete. Nasceva quest'oggi nel 1950 il mitico Om Puri. Quanti ricordi, Freak, quanti film! Ma a dire la verità io non lo conosco. Om Puri. Om Puri. Om Puri, il mitico... Dovrei? Sì? Il mitico attore indiano di Gashiram Katwal. Mi manca, questo non l'ho mai visto. Provi con un altro. Akros, dell'80. No, oppure Sadgati, Agat, Gayal, del 90. Lei non l'ha mai visto. Ma forse nel 2000, oltre il 2000 ho visto qualcosa. Senta, allora guardi, glielo dico io, nel 2002. Pira Diwana Ota Ai. Ma era quello dove si parla di un autobus che doveva correre ad una certa velocità, se no esplodeva. L'ho visto. No, non l'ho visto. Non era quello. Forse si ricorda Avara Pagal Diwana. Sì, quello l'ho visto, ma è un film non troppo recente dove c'è Marilyn Monroe si alza la gonna. Indiano, Freak, niente. Le ne cito un ultimo, Ek Aur Ek. Questo sì. L'ho visto. Qual è? Lo ricordo. No, adesso la trama non ha importanza. Non me la faccio dire. Un saluto a Om Puri. Om Puri. Attore indiano. Grande regista, grande... No, attore. Grande attore. Bravo, ma Freak. Soprattutto grande regista, ma soprattutto grande attore. Se la cava ma sempre. Anche grande regista, ma grande attore. Grazie, maestro. Mi dia le pillole, grazie. Eccole qui. Grazie. Hand and the spoon up your nose. Ooh. had to be a teacher. Teacher, you had to open up your mouth. You had to be a big shot. Teacher, all your friends were so knocked out. You had to have the last word last night. So much fun to be around. You had to have the white hot spotlight. You had to be a big shot. Billy Joel e la sua Big Shot nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, sempre con l'Ariele. Eccoci qua, abbiamo bisogno di voi ragazzi, più che mai. Pane, Burro e Rock and Roll contro le regole, essendo noi dei rocker siamo un po' sempre contro le regole. C'è qualcuno che osava dire che le immagini non si possono vedere in radio. Ecco, noi vogliamo fortemente sfatare questo mito e andare controcorrente, come spesso e volentieri sappiamo fare noi. C'è chi dice che non si possono vedere i calendari in radio. Beh, Pane, Burro e Rock and Roll non ci sta. E lanciamo allora di nuovo l'appello, al quale per ora ha risposto solo una preziosissima radioascoltatrice che si sta preparando per descriverci che dividiamo in settori i nostri lavori e per descriverci i calendari dei maschietti. Appuntamento che magari facciamo domani. Per quest'oggi mi piacerebbe invece raccattare qualcun altro che ci descriva qualsiasi tipo di calendario. Il nostro obiettivo è tagliare le vendite dei calendari di questa stagione, che stanno fiorendo nelle edicole in questi giorni, e per andare contro il calendario noi vogliamo descriverli in diretta radiofonica, così che tutti i fruitori di Pane, Burro e Rock and Roll, vedendo l'immagine via radio, l'obiettivo sarebbe quello di fargli passare la voglia poi di andare a comprarlo. Quindi gentilmente, se c'è qualcuno là fuori che ci vuole descrivere qualsiasi tipo di calendario, o magari qualcuno che l'ha fatto, che lo fa, che lo farà, l'appello è di iscrivervi al servizio Racconto le immagini per radio. Basta iscriversi al 335 100 77 77. Ripeto, non chiedetevi cosa PBR può fare per voi, chiedetevi cosa voi potete fare per PBR. Ah, guarda, questo tormentone non lo mollo, Spadino, perché mi fa molto presidente americano, mi piace un sacco. Ce l'avrete un calendario sotto mano, no? E allora perché non rovinare le vendite dello stesso descrivendocelo per radio? Fatelo, non ve ne pentirete. Intanto, Losing My Religion, R.A.M. Ed è subito festa. Bye. was just a dream. That was just a dream. DJ Ariele, risponda. Qua, sì. Lei ha forse paura della cultura? No, io ho fortemente paura di lei. Della cultura non ho mai avuto veramente il minimo timore. Di Fricantoni un po' sì. Ma perché mi perché teme? Perché il mio contratto questa... treme ogni giorno, trema ogni giorno sempre di più. Però treme, era esatto, bellissima. Grazie. La prego di salvarla. Io la vedo così pimpante e so per certo che ci stiamo tuffando nell'angolo dedicato alla cultura. Eccolo qui, il gigantesco dizionario targato Fricantoni, la parola ribelle, il vocabolo rock di quest'oggi. Ed è qui che la mia paura ha l'apice. È qui che la sua paura prende corpo. Tra l'altro non possiamo organizzarci prima delle parole, perché me le deve dire sempre in diretta? Ah, perché voglio cogliere il suo stupore in divenire, nell'atto stesso in cui si manifesta. La prego, ci dica la parola rock di quest'oggi. Esatto, l'idioma ribelle di quest'oggi è mazzo. Ci è andata parecchio bene, una C e ci avrebbe veramente rovinato la carriera. Mazzo, bene. Mazzo. Bene, sì. Allora, la parola mazzo possiamo in qualche modo collegare una quantità di oggetti diversi, sì, raccolti e tenuti insieme, una specie di matassa, mucchio, filo, filza. Un mazzo di carte. Un mazzo di carte, bene. Benissimo. Un mazzo di fiori, ecco, da non confondere con il siculo, sì, con il siciliano muzzo. Che sì, significa alla rinfusa. Per fortuna. Fare le cose a muzzo. Ho avuto paura, non sapendo il siciliano a muzzo, è vero, sì. Ecco, anticamente deve sì, sapere che il mazzo era un grosso bastone, un enorme randello, sì, un martello gigantesco che serviva per uccidere gli animali al macello con precisi colpi sulla testa dati dal macellaio. Il mazzo. Esatto. Beh, in realtà c'è anche la mazza. La mazza, esatto, mazza al femminile, baseball, certo. Bene. E da cui appunto farsi il mazzo. È vero, sì, sì. Cioè lavorare duramente come chi solleva il pesantissimo maglio, martello, certo, e lo schianta sul capo degli animali da macello, una situazione da farsi il mazzo. Resto veramente a bocca aperta, avrei tanto voluto saperlo, ora lo so. Grazie. Lei è il benvenuto. Welcome, come dicono gli anglosassoni. E così, battuta dopo battuta, facezia dopo facezia, sciocchezza presso l'una presso l'altra, siamo arrivati al momento serio. Al momento più che serio. È tempo di test attitudinale. Bravo Frick, complimenti per l'introduzione. Quest'oggi torniamo a parlare di un capolavoro della storia del rock and roll, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il disco che tutti i critici definiscono il miglior prodotto dei Beatles. Veniva pubblicato nel 1967. I Beatles inserirono una bellissima canzone intitolata Lucy in the Sky with Diamonds. Ricordate però perché questo brano fece scalpore? Questa la domanda di oggi. Bene, tre le possibili risposte come al solito. Per aiutarvi restringiamo le opzioni. Risposta A: la canzone Lucy in the Sky with Diamonds parla dell'amore libero in maniera ben poco convenzionale. Hai capito, stizzozzoni? È forse questa la risposta esatta? Ma chi vedremo. Lo sa. Passiamo alla B. Vedremo. Soluzione seconda: la canzone in questione parla dello spaccio di marijuana. Hai capito, i tossiconi? È forse questa la risposta esatta? Ma chissà. Vedremo. Passiamo alla risposta C. Le iniziali del titolo Lucy in the Sky with Diamond, Lucy, cioè Lucia nel cielo con i diamanti, farebbero riferimento all'LSD, ovvero all'acido lisergico, allucinogeno molto in voga in quegli anni. E allora perché Lucy in the Sky with Diamond fece scalpore? Perché parlava di amore libero? Parlava di marijuana? O forse ammiccava all'LSD? La risposta, come al solito, ve la diamo dopo, e cioè la soluzione a tra poco.